2024 di Enrico Pagliarini. Bentornati, questo è 2024, il programma di tecnologia di Radio 24. Siamo in onda venerdì tra le 22 e le 23, domenica 13:30-14, oppure come sempre in podcast quando volete. Iniziamo questa settimana con una buona notizia, diciamo di sì. Partiranno ufficialmente molto presto i bandi per la posa della banda ultra larga, la fibra ottica, nelle zone a fallimento di mercato, cioè quelle dove ci sono risorse pubbliche che vengono messe a disposizione di alcuni operatori che vinceranno questi bandi di gara con un'infrastruttura che rimarrà di proprietà pubblica. Comunque è una buona notizia, la notizia è stata confermata al termine del Consiglio dei Ministri del venerdì. Ovviamente non c'è un testo, quindi ci fidiamo di questo annuncio, ma poi bisognerà leggere il testo e soprattutto bisognerà capire come sono stati fatti questi bandi. Altre notizie della settimana condensate, riassunte nelle nostre Digital News. Digital News. La prima notizia riguarda il roaming. Dal 30 aprile scatta una nuova riduzione delle tariffe di roaming, cioè quelle applicate a chi telefona o naviga in internet dallo smartphone quando è all'estero in Europa. Il taglio farà risparmiare mediamente circa il 70% rispetto a quanto si è pagato finora. Alla propria tariffa nazionale si aggiungono 5 centesimi per minuto di chiamata o megabyte di dati, 2 centesimi ad SMS. A questi prezzi va aggiunta l'IVA e soprattutto vanno confrontati con i pacchetti che gli operatori offrono per l'estero e che molto spesso sono più convenienti rispetto a queste tariffe, almeno se si rimane, se si rispettano le soglie proposte. Ricordiamo che dal 15 giugno 2017 i sovrapprezzi del roaming verranno definitivamente azzerati, anche se ci saranno alcuni limiti che devono però essere ancora stabiliti per evitare un uso non equo del telefono all'estero. Nokia comincia a guardare oltre le reti e le infrastrutture di telecomunicazione, di cui è uno dei leader mondiali. Ha annunciato l'acquisizione della società francese WeThings, che produce strumenti connessi come videocamere, braccialetti fitness, smartwatch e altri prodotti, in modo particolare per la cosiddetta salute o sanità digitale o sanità connessa. Il costo di questa operazione per Nokia è di 170 milioni di euro. Google, Ford, Uber, Lyft e Volvo hanno creato negli Stati Uniti la Self-Driving Coalition for Safer Streets, cioè una coalizione, un gruppo che farà pressione sul governo per la diffusione delle auto autonome, a guida autonoma, per avere strade più sicure. Si tratta appunto di una lobby per promuovere i veicoli che guidano da soli. Mentre Samsung deve ancora annunciare i propri piani per la produzione di pannelli OLED, che sono sicuramente il futuro dei televisori, LG Display ha annunciato un investimento da 400 milioni di dollari per incrementare la propria capacità produttiva in Sud Corea. LG Display, che è uno dei più grandi produttori di pannelli per televisori al mondo, vende pannelli e quindi schermi OLED anche ad altri produttori, tipicamente alcuni produttori cinesi. Allora, in questi giorni si è parlato molto dei 30 anni della rete internet italiana. Il 30 aprile del 1986 il CNR di Pisa, un gruppo di ricercatori, di informatici al CNR di Pisa, riuscì a collegarsi via satellite ad ARPANET, la rete dalla quale poi nacque quella che oggi noi chiamiamo internet. Di questo ho parlato con Blasco Bonito, che 30 anni fa realizzò il primo link fra l'Italia e gli Stati Uniti. Fu realizzato fisicamente un collegamento da Pisa, via Santa Maria 36, agli Stati Uniti, Roaring Creek, l'atterraggio dove c'era l'antenna satellitare che riceveva. Noi avevamo un'altra antenna satellitare al Fucino, e diciamo da lì negli Stati Uniti poi c'era la connessione alla rete ARPANET, che è stata la progenitrice di internet. Quindi diciamo i computer che era a Pisa colloquiavano con i computer che erano negli Stati Uniti, quindi questa connessione fu stabilita dopo vari tentativi nei giorni precedenti, eccetera, e funzionò per la prima volta il 30 aprile dell'86. Noi oggi parliamo spesso e molto di fibra ottica, di banda larga. All'epoca quindi il collegamento era via radio, cioè via satellite. Via satellite, è una connessione che oggi farebbe ridere perché era di 48K. Niente a che vedere con i mega o giga che abbiamo adesso. Insomma. Certo, e ecco, oltre alla poca capacità, quindi a questa banda molto molto stretta, quando parliamo di internet 30 anni fa parliamo di una cosa che non ha quasi nulla, beh, se non diciamo le basi, però quasi nulla a che fare con la internet a cui noi tutti i nostri ascoltatori sono abituati, giusto? Lei ha detto le basi sono esattamente le stesse, esatto. Cioè gli strumenti informatici, i protocolli, i software, eccetera, che fanno viaggiare i pacchetti sulla rete, quindi fanno comunicare computer e quindi poi anche le persone, sono sostanzialmente gli stessi dell'epoca. Esatto, però c'è stata un'evoluzione sostanziale, che è quella che poi è stata percepita dalla maggior parte della popolazione, con l'avvento del web che fu inventato in Europa, a Ginevra, al CERN, e diciamo quello strumento che diciamo utilizzando l'infrastruttura di internet ha dato la possibilità di condividere più facilmente, appunto graficamente anche con un click del mouse eccetera, di condividere tra persone informazioni, renderle disponibili agli altri in maniera più facile e più rapida. Questo diciamo è stato il salto di qualità che ha portato la rete alla conoscenza e alla popolarità che ha oggi, insomma. Esattamente, sia sì, la diffusione che conosciamo oggi. Però diciamo le basi del funzionamento sono esattamente le stesse. Sì, sì, sì, esatto, però le ho fatto questa domanda perché ancora oggi molti confondono il web con internet. Diciamo che il web è una rappresentazione del servizio internet, potremmo dire. Sì, così è una delle utilizzazioni diciamo la più popolare di internet, anche se prima del web e forse ancora oggi, ora le ultime statistiche non mi sfuggono, penso che sia ancora la posta elettronica almeno come numero di messaggi scambiati su internet. Sì, sì, sì. E poi diciamo come volumi di traffico adesso sostanzialmente sono preponderanti altre applicazioni di internet, diciamo pensiamo alla diffusione di flussi video, no? Esatto. Pensiamo al più popolare che è Netflix, no? Esatto. Che esatto. Diciamo attualmente mi dicono occupa circa il 50% della banda di internet nelle sì, ore sì. Di punta. Sì, sì, negli Stati Uniti addirittura appunto in alcune serate i due terzi della capacità della banda, sì. Esatto, della banda internet. Su questo diciamo da tecnico mi viene da fare un'osservazione un po' triste, nel senso che internet e gli sviluppatori di internet avevano messo a disposizione diciamo tramite la loro inventiva di tutta la comunità degli strumenti che avrebbero potuto dare la diffusione di audio e video in maniera capillare già molto prima di adesso, molto prima di avere la banda e di avere questa fama di banda, perché esiste già da anni, io me ne sono occupato negli anni 80, negli anni 90 mi scusi, un protocollo che si chiama Multicast, che consente a una sorgente radio o video di essere trasmessa ai suoi destinatari senza diciamo occupare tanta banda, perché un pacchetto viene replicato soltanto nei punti di snodo dove ci sono più utilizzatori. Capisco che per gli non addetti ai lavori non è così facile, ma pensiamo un modo più efficiente di utilizzare internet. Molto più efficiente di utilizzare internet. Si sarebbe potuto avere un Netflix, per dirla così brutalmente, che non occupava il 70% della banda, ma ne occupava magari soltanto il 15 o il 20%. Sì. Questi avanzamenti tecnologici Poi vengono non utilizzati o ignorati sostanzialmente solo per scelte di politica commerciale, perché tantissime cose potrebbero essere fatte, non sono state fatte per motivi. Le aziende che gestiscono le infrastrutture di internet, i cosiddetti carrier o provider, come li vogliamo chiamare, hanno poi difficoltà a fare gli accordi tra di loro per gestire i flussi di traffico, eccetera, quindi preferiscono restare in una situazione dove quando uno trasmette fa un unicast, come si dice tecnicamente, cioè trasmette dalla sorgente al destinatario una volta sola, e quindi è più facile da gestire, non ci sono da fare accordi, però questo vuol dire poi consumare delle risorse preziose, molta banda, la banda, e avere le necessità poi di fare grandi investimenti in queste cose. Certo, tutto è collegato, tutto molto collegato, certo. Senta, all'epoca... Anche il VoIP, mi viene a dire, o il peer-to-peer, che è, diciamo, stato criminalizzato perché veniva usato da tanti per scaricare le cose, quando sono tecnologie che darebbero un uso molto più diffuso e democratico della rete, non un uso da semplici fruitori, no? Come singolo, mettere a disposizione le cose che ho, le informazioni che ho o i video che ho a degli altri, anche con poca banda, con quelle tecnologie si potrebbe fare, però poi vengono filtrate, non vengono fatte passare. Senta, all'epoca questi 48K che avevate a disposizione, li utilizzavate per fare che cosa? Cioè, quando avete messo su questo primo collegamento a internet, che poi si chiamava appunto ARPANET, per scambiarvi che tipo di dati? Sostanzialmente le applicazioni che venivano usate all'epoca erano la posta elettronica e il file transfer, FTP, diciamo. Quindi uno poteva mettere a disposizione sul proprio calcolatore un file o degli archivi, diciamo, di informazioni, di progetti, di quello che voleva, insomma, di video non tanto, perché all'epoca non era così comune diffondere video, anche perché la banda era scarsa. E quindi dando poi magari tramite posta elettronica l'informazione al destinatario, dice: a questo indirizzo troverai queste cose, le puoi scaricare, no? E quindi uno usava questo protocollo FTP e scaricava le cose che voleva scaricare. Quindi non c'era gli ipertesti, non c'era il web ancora, però diciamo prima del web è comparso un protocollo che poi tutti hanno dimenticato, si chiamava Gopher, che sostanzialmente faceva un po' quello che poi ha fatto il web, però senza avere le funzionalità grafiche. Quindi era comunque una rete, diciamo, di server interconnessi tra di loro, che si scambiavano le informazioni sulla disponibilità delle informazioni stesse. Quindi uno, diciamo, semplicemente accedendo al proprio server più vicino sapeva dove trovare le altre cose. Senta, quando appunto venne attivato questo primo collegamento, quindi avevate capito che funzionava, vi eravate resi conto, cioè eravate emozionati? Non so, io ricordo il mio primo collegamento a internet, ma parliamo non di 30 anni fa, ovviamente un po' dopo, negli anni 90. Ero emozionato, anche se non capivo bene, non avevo assolutamente capito che cosa poi sarebbe stata questa internet. Voi invece? L'emozione del momento, ovviamente, quando uno prova qualcosa e vuole raggiungere il risultato, magari per giorni e giorni non arriva, no? C'è qualche cosa che non va, un collegamento che va fuori, c'è qualche imprevisto, qualche macchina che non funziona, un software che c'è qualcosa che non va, giorni e giorni così, e quando alla fine ti riesci, ovviamente in quel momento l'emozione c'è stata di essere riusciti. Diciamo, la deformazione professionale vuole sempre che poi un attimo uno ci si fermi a dire: ma sarà vero? Aspetta, fammi riprovare. No, non è che è uno scherzo, magari c'è qualche problema. Solo dopo, a posteriori, dopo aver fatto poi ulteriori prove e conferme, diciamo, subentrata la soddisfazione vera e propria, e quindi poi andare a comunicarlo, in quel momento ero da solo, comunicarlo ai miei colleghi e poi, diciamo, cercare anche di comunicarlo all'esterno, cercavamo di fare questo comunicato stampa che poi non fu ripreso da nessuno. Cioè, nessuno aveva capito niente? Nessuno aveva capito l'importanza della cosa, però diciamo noi per primi non è che ci sorprendemmo che fosse così caduto nel vuoto, insomma, perché diciamo ci rendevamo conto che quello che stavamo facendo era così difficilmente comunicabile come risultato alla massa delle persone. Sì, molto nuovo, molto nuovo. All'epoca succede sempre così, anche certo. Oggi. Ah sì, sì, non c'è dubbio. All'epoca, se facciamo un confronto con gli altri paesi europei, noi fummo i primi a collegarci alla rete americana o i secondi? Te, insomma, come eravamo messi? Fummo i quarti. Questa rete satellitare che si chiamava Satnet fu realizzata, il primo partner fu la Gran Bretagna, United Kingdom, dopodiché Norvegia, successivamente Germania, che poi dopo un po' di tempo invece poi si staccò, non rimase, e come quarti noi. E quindi diciamo abbiamo avuto un, come dire, quasi sul podio, insomma, sì, sì, sì. Mi viene da dire, però è un buon piazzamento in questa, in questa tempistica di collegamento. Poi diciamo le vicende successive tutti le sappiamo, insomma, che l'Italia ora è al 52esimo posto, quindi c'è un po' da fare i conti di perché si è perso questo treno, sì. Sì. Ecco, a proposito di questo dibattito, qual è la sua opinione? Perché c'è chi dice sì, è vero, mancano le infrastrutture, ma una buona colpa ce l'hanno anche gli italiani e le aziende italiane che utilizzano poco internet. Ci sono questi due fattori? No, guardi, io sono convinto che la responsabilità prima di queste cose sta in capo alla politica, ai governi, perché se internet ha avuto il successo che ha avuto negli Stati Uniti e poi anche in altre nazioni del mondo, lo ha avuto perché i governi hanno fortemente aiutato questa spinta di progresso. Nell'Italia, diciamo, i governi hanno remato, non dico contro, ma insomma come un muro di gomma, ecco. Non è stato fatto nulla, ma anche più in generale per l'informatica, se pensiamo alla fine che ha fatto Olivetti, diciamo che era una nostra, un fiore all'occhiello dell'industria italiana, insomma. È tutto un trend negativo che c'è stato e che appunto la politica ha fatto di tutto per non aiutare, insomma, queste cose. La ricerca in Italia avrebbe bisogno di un grande sostegno, la ricerca di base innanzitutto, la ricerca tecnologica, anche non finalizzata degli scopi immediati, perché sennò non si crea il vivaio di persone, non si creano lo sviluppo delle idee, insomma. Abbiamo una percentuale sul PIL, diciamo, dei fondi destinati alla ricerca che è bassissima in Italia, insomma. E nessun governo fino ad oggi, a parte le parole, ha fatto qualcosa per recuperare questo gap. Questa era la voce di Blasco Bonito, che 30 anni fa è stato il primo a realizzare questo link fra l'Italia e gli Stati Uniti, era un ricercatore, un giovane informatico al CNR di Pisa. Adesso parliamo della crescente importanza del software. Partendo da una notizia, qualcosa succederà a metà maggio, riguarderà pochi consumatori, ma da qui partiamo per parlare di come sta il software trasformando molti dei prodotti che noi acquistiamo, utilizziamo e consumiamo. Bentornato a Gianfranco Giardina, il direttore del magazine digitale dday.it. Gianfranco, bentornato. Grazie molto, eccomi qui. Noi partiamo da una notizia che non ha avuto una grande eco, adesso noi gliene diamo un pochettino, che riguarda un prodotto per la famigerata smart home, di cui ogni tanto parliamo e di cui tutta l'industria sta parlando in modo abbastanza frequente, un piccolo strumento che, diciamo, apparteneva a Google, comunque apparteneva ad una società di Google comprata da Nest, che è questa società americana, anche questa comprata da Google, californiana, famosa per il termostato. All'interno dei vari prodotti c'era un piccolo hub per gestire la casa, accendere le luci, sì, controllare forse anche degli elettrodomestici, cose del genere, giusto? Sì, sì, un hub per la smart home, ce ne sono tanti di questi prodotti e alcuni con delle caratteristiche più interessanti, altri meno, ma comunque questo era uno dei più promettenti. Stiamo parlando di una categoria che ancora non ha grande diffusione, quindi è una categoria che vive ancora su piccoli numeri. Sì, allora si chiamava a questo punto, visto che è stato disattivato, adesso spieghiamo cosa sta succedendo, Revolve, ed era appunto una vecchia acquisizione, comunque faceva parte dei prodotti di Google. È stata presa una decisione che effettivamente riguarderà pochissime, adesso parliamo di migliaia, di qualche migliaio di persone, quindi di fatto riguarderà poche persone, però negli Stati Uniti soprattutto la stampa specializzata ne ha parlato, perché ci dà il là per un fenomeno che stiamo osservando. Cosa succederà dal 15 di maggio a questo strumento? Beh, a questo strumento verrà levato il supporto da parte della sua attuale proprietà, quindi Nest, che è una società della galassia di Google. Questo significa che di colpo questo prodotto non funzionerà più, perché non è un supporto inteso come aggiornamenti software e basta, è proprio il fatto che uno smart hub come questo vive solo e soltanto se è collegato a una batteria di server che devono stare da qualche parte, dovunque, in cloud, ma devono esserci, che permette la connessione a questo hub e quindi l'interconnessione, per esempio, alla propria casa quando si è in mobilità, quando si è fuori. Senza questo collegamento il prodotto muore, diventa un pezzo di ferro, assolutamente inutilizzabile. È un po' come se io comprassi un frullatore e ad un certo punto questo frullatore, ammettiamo che sia collegato ad un servizio internet, questo frullatore finisce di funzionare, cioè termina le sue funzioni. Assolutamente sì, ma devo dire non è proprio una novità, no? È già capitato anche in passato. Dobbiamo pensare semplicemente al fatto che la stragrande maggioranza di tutti le proposte, quindi gli apparecchi della cosiddetta Internet of Things, quindi Internet degli oggetti, quindi tutti questi oggetti connessi, nasce all'interno di qualche startup. Qualche volta queste startup hanno un exit finanziario felice, quindi finiscono all'interno di un grande gruppo, ma come abbiamo visto anche in questo caso questa non è necessariamente una garanzia di sopravvivenza dei prodotti. Oppure qualche volta, anzi spesso, come succede alle startup, perché è strutturale per le startup, queste chiudono. E con esse chiudono anche i server, chiudono i servizi, certo, e quindi muoiono anche i prodotti. Però alcuni di questi servizi possono vivere anche senza... Alcuni di questi prodotti possono, sì, vivere, sì, anche senza servizi esterni. Quello che ha fatto scalpore questa volta è che di fatto la società appartiene al gruppo Google. Quindi non stiamo parlando di una piccola startup che muore, ma stiamo parlando di una società molto grande, tra le più grandi del mondo, che decide deliberatamente di staccare la spina, di fatto, a un prodotto che è nelle case degli utenti, e non è un prodotto che ha 10 o 20 anni di vita, di certo, è un prodotto, sì, sì, giovane, recente. Ecco, questo svela un po' un meccanismo potenzialmente distorto. Secondo me non è un meccanismo da demonizzare, ma è un meccanismo potenzialmente distorto della softwareizzazione, lasciatemi usare questo termine un po' brutto, di tutti i prodotti. Perché non è un baco di per se stesso? Perché in realtà tutti i giorni noi apprezziamo il vantaggi che la grande influenza che il software ha sui prodotti ci dà. Per esempio tutti gli aggiornamenti, per esempio le nuove funzioni alle quali possiamo accedere. Mi viene in mente così banalmente gli speaker Sonos, che sono forse tra i più diffusi come speaker wifi. Casse audio, parliamo casse di cose audio, che si, sì, mettono, sì, in casa per ascoltare la per musica. Per ascoltare la musica, o la radio. Fino a qualche tempo fa almeno una delle casse che si potevano avere in casa per fare l'impianto multiroom doveva essere necessariamente collegata alla rete a filo. E poi queste casse stabilivano tra di loro una rete wireless. È arrivato un aggiornamento, tra l'altro dopo un bel po' di tempo che esistono queste casse, quindi sono riusciti a trovare la soluzione software. Solo con un aggiornamento software di colpo non serve più avere il collegamento fisico, basta collegarle alle wifi di casa in maniera molto semplice. Quindi man mano, ogni giorno arrivano tante belle nuove funzioni. Gli smartphone lo vediamo costantemente, certo, certo. No? E quindi il prodotto evolve. Questo aspetto però del software richiede anche un costante supporto e aggiornamento da parte della casa produttrice, quindi il compito della casa produttrice non finisce affatto nel momento in cui produce e vende il prodotto, ma deve andare avanti. E qui nasce la necessità di avere un rapporto di fiducia, il consumatore deve avere un rapporto di fiducia nei confronti del brand che acquista, e quindi qui una serie di riflessioni a cui io credo il mercato, i consumatori, soprattutto quelli italiani, non siano ancora pronti. Certo, adesso noi ci fermiamo, c'è una breve pausa, questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, a tra poco. Riprendiamo questa puntata di 2024, io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Anche questa puntata sarà disponibile in versione podcast con tutte le nostre interviste in versione integrale. 2024 è l'unico programma di Radio 24 che vi propone tutte le interviste in versione integrale e in versione più estesa nella versione podcast. È con noi Gianfranco Giardina, stiamo parlando di una trasformazione che sta accadendo per molti prodotti che si connettono alla rete internet, vivono grazie al software, grazie ad un supporto, grazie anche a questo collegamento garantito dalle aziende che offrono i servizi collegati a questi prodotti. Allora Gianfranco, qui si può fare anche una considerazione sulla garanzia, perché se il supporto a questi prodotti venisse meno, ovviamente stiamo parlando di casi probabilmente, speriamo, rari o rarissimi, però se questo supporto venisse meno entro i 2 anni della garanzia, insomma si aprono tutta una serie di questioni sulla quale non so se si è meditato a sufficienza. Allora, il prodotto sicuramente sarebbe in quel caso, cioè se qualcuno avesse comprato in Italia da un rivenditore italiano, quantomeno comunque europeo. Esatto. Revolve negli ultimi 2 anni si troverebbe con un pezzo di ferro, quindi un difetto di conformità grave, e quindi potrebbe richiedere non al produttore bensì al rivenditore, come la norma di legge prevede, il rimborso totale della spesa. Quindi qui ovviamente ci vogliono 2 cose: uno, che il consumatore sia informato dei suoi diritti, e 2, ovviamente, che il rivenditore poi sia un rivenditore serio. E qui, certo, si apre tutto un tema, cioè la scelta del produttore e la scelta anche del rivenditore in un'era di grande influenza del software sui prodotti è una scelta che va fatta molto attentamente, cioè non può essere più il solo prezzo a guidare sia la scelta del produttore hardware che la scelta del rivenditore, perché si rischia seriamente di trovarsi con un pezzo di ferro. Certo, oppure nemmeno solo le caratteristiche tecniche del prodotto in sé, cioè tipo compro un frullatore connesso, non devo guardare solo se frulla bene. Sì, adesso l'esempio del frullatore, ho paura che qualcuno poi ci dica sì, ma chi lo vuole un frullatore connesso? Sì, sì, cioè, prendo un oggetto connesso. Però, l'automobile. L'automobile, visto che recentemente abbiamo parlato a 2024 di automobili connesse, ed è un tema di cui parleremo ancora, e abbiamo fatto un esempio di alcuni servizi, ed è un po' il nodo della questione, alcuni servizi che vengono abilitati sull'automobile grazie al software. Cioè io aggiorno il software dell'automobile, oppure abilito o disabilito, io casa madre, un servizio e l'automobile magari fa un certo tipo di operazione, che ne so, una frenata d'emergenza, e io casa madre potrei uso il condizionale, potrei decidere che con un aggiornamento software quel tipo di frenata d'emergenza la disattivo. Adesso faccio un esempio assurdo per farci capire. Assolutamente sì, perché, ma non è così assurdo, sì, in realtà, perché una volta che la macchina ha delle funzioni di guida semiautonoma, queste funzioni di guida semiautonoma possono essere attivate o disattivate. Si tratta di attivare o disattivare delle linee di codice software, certo, cioè, certo. Non è niente di più. Quindi se per caso la casa madre decide di disattivare quella funzione, forse perché, mettiamo, un'automobile dall'altra parte del mondo fa un incidente con quella funzione, quindi per motivi di responsabilità, di colpo la casa madre decide di teledisattivare quella funzione, ecco che tutti i possessori di quella macchina si ritrovano senza quella funzione. Ovviamente se poi si va a cercare nei codicilli e in tutte le note di piccolissime, quelle di condizioni di acquisto, eccetera, si scopre che la casa madre si riserva il diritto di attivare o disattivare. E noi abbiamo fatto per accetta sull'app che guidava. Accetta senza leggere assolutamente niente, ma non ne faccio una colpa agli utenti. Certo, no, tutti noi accettiamo senza leggere qualcosa che sia più lungo di 1000 caratteri, sì. È evidente. Dunque, specifichiamo e spieghiamo una cosa importante. Abbiamo detto che oggi molti prodotti e sempre più prodotti, soprattutto in questa nuova dimensione della smart home, della casa intelligente, della casa connessa, chiamiamola come vogliamo, sono connessi alla rete internet e gli aggiornamenti software di fatto servono per renderli ancora più intelligenti, per creare nuovi servizi, nuove funzionalità. Ma non sempre questi prodotti devono essere costantemente collegati a internet. Quindi mi spiego, io potrei avere un controllore delle luci che è connesso e riceve i suoi begli aggiornamenti e quindi diventa più intelligente nel corso dei mesi e degli anni, però potrei anche continuare ad utilizzarlo senza che sia necessariamente connesso alla rete internet. Ci sono alcuni strumenti di questo genere. Il problema è che invece molti di questi prodotti richiedono proprio la connessione permanente, quindi di fatto affidiamo nelle mani delle aziende questi prodotti, per non parlare ad esempio degli elettrodomestici di cui abbiamo parlato recentemente. Assolutamente sì, dobbiamo mettere uno spartiacque molto chiaro. Più che il collegamento a internet di per sé stesso, è il collegamento a dei server specifici. Cioè, ci sono degli apparecchi che vivono bene collegati a internet perché accedono per esempio allo streaming di Radio 24 e quindi sentono questa trasmissione in streaming e quindi accedono a internet, ma per fare questo hanno soltanto bisogno che Radio 24 metta a disposizione su internet il proprio stream, ma non hanno bisogno di essere collegati al server del produttore, no? E quindi questa è una categoria di prodotti in cui se il produttore sviluppa nuove funzioni e quindi rilascia degli aggiornamenti, questi sono benvenuti. Se non li dovesse rilasciare, fino a prova contraria il prodotto funziona comunque, anche se la società dovesse chiudere i battenti. E abbiamo visto in molti casi esempi di questo tipo che hanno funzionato. Il caso 2 invece, quello molto più problematico, è quando l'apparecchio vive e esiste sulla rete solo quando si collega, si manifesta, diciamo, su un server del produttore che centralizza tutte le funzioni di questo. Perché è utile avere un servizio di questo tipo? Beh, è utile perché molte volte accedere dall'esterno di casa, quindi da lontano, da remoto, da un accesso pubblico, da internet, a quell'apparecchio di casa può essere utile anche per controllare che le luci siano spente, per fare qualsiasi tipo di funzione, per le videocamere di sorveglianza, per tutto quello che volete. Ecco, accedere da fuori potrebbe essere complicato in alcune situazioni, senza fare delle configurazioni. Non tutti hanno un IP pubblico, non tutti hanno... Adesso non voglio entrare in termini tecnici, il NAT e tutto il resto di quello che succede su internet, però in questo modo ci si registra sul sito del produttore, l'apparecchio comunica con questo server, si notifica, io vado sul server del produttore e da lì entro a casa mia con tutte le sicurezze e le password del caso. Ecco, in questo caso, se la configurazione è questa, è chiaro che se il produttore spegne il server, il prodotto non è più raggiungibile o in alcuni casi proprio non è più neanche funzionante, neanche in locale. E questo è il vero problema. Perché i produttori fanno questo? Beh, certo, un po' per risolvere il problema della connessione. Sì, così ci danno una mano, diventa più semplice la configurazione, che è uno dei grandi ostacoli all'adozione di queste tecnologie. Dall'altro canto, però, in questo caso, in questo modo, il produttore sa precisamente che cosa succede. Cioè, cosa succede a casa mia. Lo sa sotto un patto di riservatezza, diciamo così, però è anche un patto in cui l'utente dà un assenso, sempre nei codicilli che accetta al momento in cui si registra, dà l'assenso all'utilizzo di questi dati da parte del produttore in maniera più o meno aggregata, in maniera più o meno statistica, ma comunque glieli dà. In questo caso il produttore, conoscendo, per esempio facevo il caso degli elettrodomestici, una lavatrice connessa, tutti i produttori richiedono la registrazione sul proprio sito, quelli che hanno una lavatrice connessa, che ce la stanno per avere in questi mesi, e aggregano i propri dati sui propri server. Sì. Questo significa che sanno quanti lavaggi faccio, che programma faccio, perché lo faccio, con che frequenza, che vita ha, che tipo di consumo presunto avrà la mia lavatrice, se ha problemi di ordine tecnico, eccetera, eccetera. Attendere queste informazioni, ammesso questi dati, ammesso che vengano trasformati in informazioni, quindi sarà una mole di dati enorme che tutti gli oggetti connessi alla rete daranno, se questi dati verranno usati, il produttore potrà essere proattivo nel propormi una nuova lavatrice quando si sta guastando la mia, nel capire quali sono le funzioni che uso di più e quindi sviluppare così nuovi prodotti, sì, o migliorare anche i prodotti, non mettiamo in dubbio, e di fatto disintermediare completamente tutta la distribuzione. Cioè a quel punto è la prima volta che il produttore conosce un diciamo nome, cognome, dove sta e che tipo di utilizzo fa dell'apparecchio, conosce i propri clienti. Prima sapeva che qualche negozio aveva venduto tot lavatrici, ma non aveva la minima idea, se non con dei sondaggi a campione, di che tipo di utilizzo ne facesse. Quello che quando compriamo un apparecchio di qualsiasi tipo, spesso c'è dentro la cartolina registra manda il tuo prodotto, eccetera. Nessuno manda, ma era la stessa esigenza, però nel mondo cartaceo tradizionale. Ecco, adesso chiaramente questa esigenza. Se questa esigenza è sì utile, però nasconde quelle minacce di cui parlavamo prima. Se il produttore sparisce, se il produttore decide di chiudere il servizio, decide di chiudere la linea, cambia standard, non dà più il supporto a, eccetera, eccetera, ecco che quella funzione, almeno la lavatrice continua ad andare, ma tutte le sue funzioni della lavatrice connessa, per cui magari l'ho scelta o anche scelto per quello, spariscono. Quindi come ci si difende, ammesso che sia una minaccia questa? Beh, ci si difende facendo una scelta consapevole. Cioè la prima cosa è saperle queste cose. La prima cosa è saperle. Quindi la prima opera, adesso senza incensarci troppo, ma meritoria forse stiamo facendo anche noi, cioè sapere che quando si compra un apparecchio che ha una grossa componente software, questa può essere messa a rischio da una decisione unilaterale del produttore. Certo, che per esempio una delle decisioni potrebbe anche essere: hai provato tutte queste belle funzioni? Benissimo, da domani sono a pagamento. Perché no? Voglio dire, l'esempio che hai fatto tu dell'auto, Mercedes ha comunicato appunto che alcune delle sue funzioni smart della nuova classe E saranno disponibili gratuitamente per i primi 3 anni e poi ci sarà un canone da pagare per avere le medesime funzioni che già nella macchina sono in luce. È proprio uno scenario completamente diverso. È uno scenario che cambia. Sì, no? Probabilmente andiamo verso anche un mondo dove, parlando di elettrodomestici, io comprerò la lavatrice magari a un prezzo d'ingresso molto basso, non dico regalata, ma 99 euro, consegnata a casa, bellissima, e dopodiché potrai pagare un gettone, un euro, mezzo euro per ogni lavaggio che faccio. Quindi trasformare l'hardware sempre più verso il mondo dei servizi. Comunque, al di là di questi scenari, dicevamo, la prima cosa è essere consapevoli, la seconda cosa è quindi fare una scelta di conseguenza. Qui il valore della marca diventa importantissimo, cioè vedere chi sono per esempio i marchi che continuano a supportare i propri prodotti, che danno gli aggiornamenti firme. L'abbiamo detto anche in passato riguardo per esempio gli smartphone Android, bravissimo, che molto difficilmente hanno una costanza di aggiornamenti. Quando Google rilascia il nuovo sistema operativo, la versione di quel sistema operativo per tutti i terminali non viene quasi mai fatta, viene fatta in pochi casi. Ecco, vedere per esempio chi sono i produttori che continuano ad aggiornare anche i telefoni vecchi e quelli che invece non lo fanno, dà una garanzia maggiore. Nello stesso modo, vedere quali sono le aziende solide che probabilmente non spariranno è una scelta ovviamente che è molto importante. Allontanarsi dai prodotti che hanno importanti componenti software solo per questo motivo, perché non dobbiamo neanche spaventare nessuno, è però a mio avviso sbagliato, perché i vantaggi che dà la softwareizzazione dei prodotti sono enormi. Quindi bisogna semplicemente fare una scelta consapevole, perché per evitare di trovarsi poi con un prodotto che era bellissimo fino a ieri, che diventa un pezzo di ferro domani. Esatto, magari fra un paio di anni qualcuno ci scriverà sorpreso perché ha comprato un prodotto che o smette di funzionare oppure gli viene richiesto un canone per alcune funzioni o addirittura insomma cambia proprio la dinamica di funzionamento, e noi gli manderemo il link a questa puntata. Assolutamente, l'avevamo detto. Vabbè. grazie Gianfranco Giardina per essere stato con noi, a presto e buon lavoro. Grazie mille. Adesso parliamo di quella che è stata definita app economy, cioè quella economia, quell'insieme di aziende, professionisti che sono nati grazie alle applicazioni e quindi grazie agli smartphone che hanno creato l'esigenza di avere le applicazioni e ovviamente hanno creato l'esigenza di avere dei negozi dove si scaricano o si acquistano, si scaricano se sono gratuite semplicemente oppure si acquistano e si scaricano applicazioni a pagamento. Gli App Store prima di tutto e soprattutto quello di Apple, che ancora oggi alcuni dicono garantisce un introito per molti operatori del settore, per molti professionisti, per tutti coloro che fanno parte di questa app economy, superiore rispetto ad altri app store, cioè chi ha iOS e Apple paga di più, è disponibile a spendere di più rispetto all'altro mondo e quindi i ricavi sono più elevati. Naturalmente il mondo delle app ha trasformato molte aziende e vogliamo raccontare in questa puntata di 2024 come ha trasformato una startup che fino a poco tempo fa era basata prevalentemente su web e poi ha compreso alcune dinamiche e ha cambiato il proprio modello basandosi sempre di più e soprattutto su un'applicazione, sull'applicazione. Ne ho parlato con Monica Archibugi, che è una delle fondatrici delle Cicogne. Sentite che cosa hanno creato queste ragazze e come appunto l'applicazione è diventata fondamentale nel business. Le Cicogne è un'app che permette ai genitori di trovare la tipica babysitter della porta accanto. Noi facciamo creare al genitore una proposta, a seconda delle sue necessità, i giorni, gli orari, l'età del bambino, se serve che la babysitter sia automunita, che parli una lingua, se fa le pulizie, il vitto alloggio, tutte queste caratteristiche. E nel momento in cui lui la completa, si pubblica su una bacheca proposte, visibile unicamente alle nostre babysitter. In quell'istante, nel momento della pubblicazione della proposta, le babysitter ricevono una notifica sul telefono, oltre che un'email. E quindi verificano se leggono la proposta e verificano la loro disponibilità, ok, sono libera quei giorni, mi interessa perché ho esperienza con questi bambini di quest'età, e quindi mi candido. Nel momento in cui loro si candidano è come se stessero inviando in un certo senso il loro curriculum, perché rendono visibile al genitore il loro profilo, dove hanno le informazioni personali, quindi la foto, l'indirizzo, e la descrizione e l'età. E ovviamente anche i feedback degli genitori con cui hanno già lavorato. Questo è quello che permetterà al genitore di valutare se la babysitter è compatibile rispetto a quello che loro cercavano. Il modello di business delle Cicogne qual è? Me lo posso immaginare, probabilmente il pagamento avviene sulla vostra piattaforma e il pagamento della babysitter, intendo, ma quali altre fonti di ricavi avete? Beh, allora le babysitter pagano un abbonamento mensile di 9,99 euro, che in realtà possono anche non pagare se accumulano abbastanza punti ogni mese. Abbiamo creato un sistema a punti perché abbiamo visto che per fidelizzare anche le babysitter, più le coinvolgiamo, quindi più usano l'app, più punti accumulano e quindi poi non vanno a pagare l'abbonamento, e questo per loro è ovviamente uno stimolo ad utilizzare l'app. E un'altra fonte di guadagno è anche la possibilità da parte del genitore di effettuare una proposta, che tendenzialmente è sempre gratuita, oppure c'è la premium in cui paga 9,99 euro, che gli permette di visionare non solo un profilo gratuitamente, ma più profili. E l'altro metodo di guadagno è la proposta last minute. Noi consideriamo una last minute dalle 24 ore prima la necessità fino alla mezz'ora prima la necessità. Quindi un genitore Tipo, devo andare a cena. Esatto. Che cena improvvisa. Esatto. Faccio una proposta sull'app, arriva una notifica a tutte le babysitter della zona con scritto last minute, tutte le babysitter la aprono, se sono interessate si candidano e il genitore inizia ad avere tutti i profili, tin tin tin tin, e vede proprio tutte le notifiche che gli arrivano. E poi sta a lui, come al solito, scegliere quella che gli piace di più. Non siamo noi a selezionare le babysitter per lui, è lui che fa la sua scelta migliore. Il nostro ruolo è quello di creare un sistema che gli permetta di capire qual è la babysitter migliore per lui. E non è per niente semplice. Quanti sono gli utenti e soprattutto dove operate? Allora, abbiamo fatto un grossissimo salto di qualità e di quantità. Siamo passate da 4 città italiane fino a dicembre del 2015 a 83 città italiane ad oggi, su cui siamo attive, quindi quasi tutta Italia. E, non te le sto ad elencare perché ci metteremo un po' di tempo. Assolutamente. E quindi essenzialmente gli utenti sono circa 4.000 babysitter e circa 4.000 genitori. I genitori sono un po' di meno delle babysitter, ma è proprio questo il nostro obiettivo, perché dobbiamo avere più offerta di babysitter per garantire al genitore più scelta. Senti, sono genitori e babysitter, giovani digitali o non è detto? Non è detto, tant'è che l'app è un ostacolo a volte, perché il genitore, il primo rapporto che ha con noi è telefonico, quindi atterra sul sito, vede il numero di telefono e ci chiama. All'inizio per noi questo poteva anche essere negativo, perché ovviamente stavamo creando un sistema tecnologico che aveva l'obiettivo di funzionare da solo, ma poi ci siamo resi conto che in un sistema del genere, soprattutto quando si tratta di bambini, non si può dare per scontato che le persone facciano tutto da soli. Hanno bisogno di essere rassicurati al telefono, quindi abbiamo accettato questa cosa, l'abbiamo fatta nostra e abbiamo messo esposto il numero di telefono e dicendo al genitore che può fare la ricerca anche via telefono, quindi in un certo senso è come se lo registrassimo noi al telefono. Voi fate una selezione delle babysitter o affidate solo ai genitori questa selezione? Guarda, questa è una domanda bellissima e giustissima e ci fanno un sacco i genitori, quindi sono contenta che tu me l'abbia fatta, perché la selezione è del genitore. Quello che noi facciamo è una verifica dell'identità, quindi la babysitter si iscrive, mi carica il documento d'identità, io la chiamo su Skype e verifico che sia effettivamente lei. Però la selezione, il nostro obiettivo è un po' diventare il trip advisor delle babysitter, quindi non sono io a giudicarti la babysitter, uno perché non ho la tua autorità, non è il mio ruolo, non è il mio compito, e dato che il nostro obiettivo poi è anche andare in tutto il mondo, diventerebbe un po' complesso. Il nostro obiettivo è quello di permettere a te genitore di leggere le opinioni degli altri genitori rispetto a quella babysitter, anche perché è statisticamente provato che un genitore si fida molto di più dell'opinione di un altro genitore rispetto a quella addirittura di un esperto. Cioè, uno va dal pediatra o gli dice il suo amico che ha avuto quello stesso problema con suo figlio, si fida di più dell'amico. E quindi noi vogliamo alimentare questa cosa. Quindi, diciamo, la prima volta, o comunque le prime esperienze della babysitter potrebbero anche creare una serie di punti interrogativi, mano a mano che la babysitter lavora tramite la piattaforma dovrebbe accumulare dei giudizi possibilmente positivi e quindi dovrebbe, diciamo, la piattaforma diventare anche una sorta di garanzia. Assolutamente sì, è esattamente questo il nostro obiettivo, e per di più è un feedback reale, perché ricordiamoci che non è che chiunque può lasciare il feedback a una babysitter qualunque, quindi non possono essere feedback falsi. Perché il genitore deve aver fatto una proposta, la babysitter si deve essere candidata e lui la deve aver scelta. Solo dopo la scelta tramite l'app lui è abilitato a effettivamente lasciare un feedback, il che implica che si siano almeno sentiti per telefono o incontrati fisicamente, quindi ha la possibilità e il dovere di lasciare un feedback. Se io dopo una, due, tre esperienze con la babysitter sono contento e soddisfatto e mi metto d'accordo con lei senza passare tramite la piattaforma, quindi senza lasciarvi quel minimo di denaro che voi ricavate, insomma, dalle transazioni, come avrete sicuramente affrontato questo? In realtà l'app nasce proprio per risolvere questo problema, perché noi prima eravamo solo un sito che faceva incontrare domande e offerta, però poi non li faceva lavorare insieme, quindi noi non guadagnavamo diciamo sulle ore lavorate, no? Invece adesso tramite l'app diamo due vantaggi enormi ai nostri utenti, sia i genitori che le babysitter. babysitter, ovvero il primo vantaggio è il pagamento tramite carta di credito. Quindi io genitore non mi devo minimamente ricordare quando e quanto pagare la babysitter. L'altra volta lei mi ha dato 2 euro in più di resto perché non ce le avevo, quell'altra volta non avevo i soldi, quindi devo fare la somma di 3 ore più 2 ore e mezza di oggi, eccetera. Tutto tracciato dall'app. Tutto tracciato e tutto calcolato. La babysitter è anche contenta perché non deve avere l'onere di chiedere al genitore i soldi ogni volta, anche perché si vergogna, te lo dico per esperienza, un sacco di babysitter si vergognano. E poi la babysitter, se lavora 2 ore 11 minuti e 33 secondi, quegli 11 minuti e 33 secondi sono pagati e la babysitter è contentissima perché 10 minuti di qua, 15 minuti di là, eccetera, eccola lì che ha riguadagnato quei 30 euro al mese in più, 50 euro al mese in più, che sicuramente le fanno comodo. Il secondo vantaggio è l'assicurazione. Nel momento in cui la babysitter arriva a lavorare, apre l'app, fa un check-in, quindi parte un cronometro, finisce di lavorare, fa check-out, quindi termina il lavoro della babysitter, l'app calcola il compenso e durante tutte quelle ore c'è un'assicurazione che copre i danni verso la casa e verso il bambino. Quindi il genitore sa che se usa l'app beneficia dell'assicurazione, se non usa app non beneficia dell'assicurazione. Certo, comunque una cosa interessante che ci stai dicendo è che dal sito all'app si è ridotto il tasso d'abbandono, o comunque è aumentato il tasso di fedeltà, non so quello. Assolutamente sì. Era un po' una scommessa per noi, però l'abbiamo vinta. È ovvio che dobbiamo aumentarlo ancora di più, è ovvio che dobbiamo creare sempre più vantaggi di giorno in giorno per far sì che queste persone vogliano proprio usare l'app continuamente, che non ci sia neanche il dubbio, la uso o non la uso. E quindi questo è il nostro obiettivo, insomma. Ecco, ti vorrei fare una domanda anche dal punto di vista tecnologico più che tecnico. Tu sei una giovane ragazza, hai iniziato questa attività anche per una tua esperienza facendo la babysitter. Da qui a creare un'azienda basata su un sito e oggi soprattutto su un'app, che di fatto è tutto il valore dell'azienda, cioè se l'app è bella e funziona, è molto facile da utilizzare, il business va, se no no. Ecco, ci racconti un po' questa esperienza. Allora, prima di tutto è stata un'esperienza inaspettata, inattesa per me, nel senso che non mi sono svegliata un giorno dicendo ok, crea un'azienda. È tutto nato come una conseguenza fortunata di eventi, io la chiamo, perché una mattina ho iniziato come babysitter, 2 mesi dopo avevo 4 famiglie per cui la facevo babysitter, 8 mesi dopo 20 e stavo uscendo pazza, quindi ho contattato le mie amiche per aiutarmi, ho fatto da sponsor alle mie amiche per aiutarle a trovare lavoro, ho creato un quadernino, un gruppo Facebook e poi un sito, è stato tutto conseguenziale, fino a che un giorno la cosa è esplosa, è uscito un articolo sul giornale e quindi lì, avendo fatto dopo 5 notti di seguito in bianco per rispondere email, fare matching di domande e offerte a mano, ho detto forse questo può diventare effettivamente qualcosa, ovvero un'azienda. Come faccio? Non posso farlo da sola, quindi ho cercato una socia, l'ho trovata, attualmente Giulia Gazzelloni tuttora, e abbiamo deciso di applicare per un fondo, per un acceleratore di impresa che si chiama Luis Labs qui a Roma, che dietro ha un fondo di investimento, il Venture Group, che ci ha dato 50.000 euro, con cui siamo partite, quindi abbiamo costituito l'azienda, abbiamo creato un nuovo sito, abbiamo studiato delle strategie, tutto quello che io facevo era molto di pancia, invece dopo è stato tutto una strategia. Ed è impressionante quanto siamo cambiate negli ultimi 3 anni, ovvero dal momento della costituzione, ma è ancora più impressionante quanto le cicogne è cambiato da quasi 6 anni fa, 5 sicuri, insomma. Dalla prima idea. Senti, ma oggi se il vostro progetto è andare all'estero. Sì. Avreste bisogno altro che di 50.000 euro. Sì. Quanti? Adesso, guarda, proprio al momento siamo in fundraising per 300.000 euro, abbiamo quasi raggiunto l'obiettivo, ci manca veramente poco. Questi ci servono per consolidare la nostra presenza in Italia entro la fine del 2016, quindi proprio nel 2016, come dire, ce la dobbiamo mangiare l'Italia. Dopo vogliamo andare all'estero, come? È un tabù, però sicuramente almeno 1 milione di euro, il famoso round day della startup. Sì, che questo è uno dei problemi delle startup italiane. Io continuo a dire i 30, 40, certo per iniziare servono, sono utili, però servono a poco per crescere, ma all'estero le cose cambiano e soprattutto ci sono dei competitor? Sì, assolutamente sì. I competitor ci sono in tutto il mondo, ma anche in Italia stessa, sono tutti dei siti, rarissimamente sono delle app, quindi questo è un nostro vantaggio, e al momento nessuno fa la transazione economica della babysitter, quindi questo è qualcosa su cui noi dobbiamo spingere. Però finché non abbiamo standardizzato il processo in Italia, non lo possiamo impacchettare, inscatolare e replicare in un altro paese. Quindi noi dobbiamo riuscire ad arrivare ad un punto in cui abbiamo creato questo e sappiamo che porta questo risultato. Fino a che non abbiamo questo di ogni singolo processo, di ogni singola persona necessaria nel processo, non lo si può poi replicare. E ovvio, comunque ci sono delle difficoltà culturali e di conoscenza territoriale che vanno affrontate quando si va all'estero, però di base il processo rimane sempre quello. Sì, le babysitter non sono vostre dipendenti. Assolutamente no. Sono quindi come gestiti i pagamenti? Sono dirette dipendenti dei genitori, e quindi il genitore, nel momento in cui noi prendiamo i soldi dalla sua carta di credito e la mandiamo su quella della babysitter, sul conto della babysitter, noi abbiamo scritto all'interno dei termini e condizioni che i nostri utenti hanno accettato, che ci autorizzano tramite un mandato all'incasso a prendere questi soldi per loro nome e per numero conto, ovviamente le babysitter. E quindi questo è un qualcosa che al momento transita tramite noi. In un futuro, nel momento in cui ci saranno delle possibilità tecnologiche di fare i pagamenti sdoppiati, lo faremo volentieri. Adesso ti faccio una domanda che faccio anche ad altre start-up o comunque piccole e giovani aziende. Voi siete giustamente molto focalizzati sul vostro business. Il vostro business è mettere in contatto i genitori che hanno bambini con babysitter. Che cosa potreste aggiungere per sfruttare la bontà e la tecnologia che avete creato, questa applicazione? Che tipo di servizi oppure anche altri tipi di business? La realtà è che l'obiettivo massimo e supremo è creare una piattaforma che sia adatta a fornire qualsiasi tipo di servizio alla persona, che sia il dog sitting, che sia l'assistenza anziani, che sia l'assistenza medica, qualsiasi cosa. Ma sono campi completamente diversi tra di loro, quindi è difficile che sia un unico portale o un'unica app, direi tendenzialmente impossibile. Può esserci dietro la stessa azienda che crea tot diverse applicazioni o tot diversi siti? Questo è possibile, però ognuno ha delle particolarità, delle necessità che variano, e quindi vanno creati diversi sistemi di comunicazione. Alla fine il problema sta tutto ed unicamente nella comunicazione. Quindi ti immagini un futuro in cui noi avremo molte più app rispetto a quelle che noi usiamo oggi per tanti servizi? Per fare qualsiasi cosa. Qualsiasi. In realtà io mi immagino in un futuro qualcosa di unico che tenga tutto, ma questo è molto lontano. Ci sarà sicuramente la fase intermedia in cui ci sarà un'app per fare veramente qualsiasi cosa. Magari con le bot? Cioè con gli instant messenger che rispondono alle mie domande? Questo è qualcosa di nuovo che sta uscendo adesso e che mi piace tantissimo e che mi piacerebbe davvero implementare all'interno delle cicogne. Quindi sì, credo proprio che sarà in quella direzione. In alcune città italiane come Milano, Roma, Firenze e Torino esistono servizi di car sharing cosiddetti free floating, cioè significa che l'auto può essere presa e lasciata in qualsiasi posto della città, quindi che può liberamente circolare ovunque, non è vincolata ai parcheggi, per questo si chiama free floating. È stata una delle grandi novità e uno dei successi del car sharing in alcune città, Milano soprattutto. Allora, queste auto sono connesse ad internet, sono geolocalizzate, si possono prenotare con un'app sullo smartphone, si può aprire l'automobile con l'app, quindi quando io arrivo vicino all'auto che ho prenotato, faccio tap sul display dello smartphone e apro l'automobile. È molto divertente questa cosa. Car2Go ed Enjoy sono i due operatori principali in questo mercato. Ma questa settimana vi raccontiamo una novità. Allora, la stessa tecnologia arriva ora, molto presto, fra qualche giorno, ed è una prima europea e forse mondiale. Allora, arriva nel noleggio tradizionale, nell'autonoleggio tradizionale. Da metà maggio Locauto lancerà un servizio che si chiama Elefast, da elefante perché il simbolo di Locauto è un elefante. Allora, è un servizio che permette di prenotare e prelevare in modalità self-service l'auto tramite l'app sullo smartphone. come ci ha spiegato Christian Isola, che è il responsabile marketing di Locauto. Allora, il funzionamento è molto semplice, soprattutto per chi ha già dimestichezza con questo tipo di strumenti. Preliminare all'utilizzo del servizio è un'iscrizione, che è molto semplice, simile a quella che si fa in altri ambienti web. Dopodiché il cliente si crea un account e con quell'account può andare alla ricerca delle vetture negli uffici aeroportuali dove il servizio è abilitato, quindi per la Go Live i 9 aeroporti, fra cui Malpensa, Fiumicino eccetera, e poi a breve tutti gli aeroporti della rete italiana di Locauto Rent, che sono circa 25. E il cliente va alla ricerca della vettura, quindi fa una normalissima prenotazione ricerca di vettura su una location, dopodiché trova ben visualizzata la vettura contrassegnata da questo servizio che abbiamo chiamato Elefast, che ha questa icona che riteniamo molto particolare, cioè l'icona del touch arancione appoggiata sulla macchina blu, che è il simbolo storico del car rental. Perché al momento non tutte le automobili sono abilitate con questa tecnologia, non si possono aprire dallo smartphone. Okay. Esatto, abbiamo previsto 2000 vetture su una flotta che raggiungerà i 12-13 mila unità, quindi comunque diciamo un buon 15% della nostra flotta. Quando l'utente trova e prenota la vettura contrassegnata dalla tecnologia Elefast, sa già che poi, arrivato all'aeroporto di destinazione, non dovrà effettuare il noleggio in maniera tradizionale, quindi salterà completamente la coda o comunque il passaggio dal banco di noleggio. Arrivato davanti alla vettura dovrà semplicemente digitare il PIN che è presente sul parabrezza della vettura a riprova di essere di fronte a questa vettura e, magia, che è la cosa diciamo su cui abbiamo lavorato e che ci rende orgogliosi, sblocca le portiere dell'auto con un semplice touch sull'applicazione. Apre la portiera, trova le chiavi della vettura nella tasca della portiera, mette in moto e se ne va. Ecco qui che prende forma quello che noi abbiamo chiamato il noleggio full self service. Tutte le procedure sono state virtualizzate, ci sono altre procedure a volte per noleggiare un'auto, che ne so, ad esempio vedere dove sono i danni oppure segnalare altri danni, tutto virtualizzato nell'app. L'unica operazione per la quale è richiesta la presenza al banco, ma è un una tantum, la si fa una volta poi basta, è per registrare la patente. Ovviamente bisogna guardare in faccia la persona e vedere se quella è la persona che corrisponde alla patente, però fatta una volta si è registrati e si può sempre utilizzare questo sistema self-service, un servizio che è pensato in particolare per chi ha molta fretta, soprattutto viaggiatori d'affari, e chi quindi è un cliente abituale. Fatta una registrazione, tutte le altre volte non deve far altro che andare direttamente all'automobile. Mario Tavazza, presidente di Locauto. Quando arriva un aereo c'è tanta gente che va a prendere la macchina, quindi ci sono dei momenti di coda, di fila, poi dipende dalla velocità con cui si smaltiscono i contratti, però un contratto tradizionale impiega circa 10 minuti, perché uno deve presentare i documenti, la patente, la carta di credito, fare gli incassi con la carta di credito, cioè tutta una burocrazia particolare, per cui tendenzialmente chi vuole una macchina, se non ha nessuno davanti, ci mette almeno 10 minuti. Se ho davanti 4-5 persone o 20 persone, è chiaro che gli operatori di banco sono più di uno, questo ovviamente, però ci sono dei momenti in cui si creano delle file interminabili. In questo modo invece soprattutto la persona che ha poco tempo, che prende l'aereo, arriva la mattina, deve all'appuntamento d'affari e deve ripartire, non può correre il rischio di perdere o arrivare in ritardo o perdere l'appuntamento. In questo modo gli è garantito la massima tempestività. E così concludiamo questa puntata di 2024. Come sempre grazie per la vostra attenzione, continuate a scriverci sia per raccontarmi come riascoltate 2024, ma anche per suggerirmi, magari prima o poi faremo anche una classifica, suggerirmi l'applicazione che utilizzate per gestire il podcast. Ci sono tantissime applicazioni, soprattutto per Android, e quindi mi fa piacere leggere le vostre impressioni. Ricordate il nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, mi trovate anche su Facebook e su Twitter, che potete utilizzare per interagire con noi. Ci risentiamo la prossima settimana. La prossima settimana dovremmo occuparci di edilizia, ma non solo di edilizia, comunque di costruzioni in generale, parlando del BIM, che alcuni ascoltatori mi hanno suggerito, è un tema di cui si sta parlando. che non necessariamente significa digitalizzazione, è più che altro un metodo di lavoro, ma ovviamente all'interno di questa metodologia, di questa anche forma mentis, c'è un ruolo molto importante della tecnologia, che serve per tante cose, per rendere più efficiente il processo anche di costruzione di uno stadio, di un centro commerciale, di una casa, di un ponte, ma anche per rendere tutto più trasparente. Parleremo di questo senza entrare in tecnicismi, senza fare una puntata da addetti ai lavori, quindi se mi scrivete, prudenza a quello che scrivete, perché sennò passo oltre. E probabilmente parleremo anche di come la tecnologia sta cambiando la finanza, in modo particolare per la concessione di credito tra privati. Questo è altro nella prossima puntata di 2024, ci risentiamo quindi fra 7 giorni.